already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. 47 years ago, our fathers brought forth on this continent a new nation. Sono passati 17 lustri e un anno che i nostri avi costruirono su questo continente una nuova nazione concepita nella libertà e votata al principio che tutti gli uomini sono creati uguali. Adesso noi siamo impegnati in una grande guerra civile, la quale proverà se quella nazione o ogni altra nazione così concepita e così votata possa a lungo perdurare. Noi ci siamo raccolti su un gran campo di battaglia di quella guerra. Noi siamo venuti a destinare una parte di quel campo al luogo di ultimo riposo per coloro che qui diedero la vita perché quella nazione potesse vincere. È del tutto giusto e appropriato che noi compiamo questo atto, ma in un senso più vasto noi non possiamo inaugurare, noi non possiamo consacrare, non possiamo santificare questo suolo. We cannot hallow this ground. The brave men living and dead. I coraggiosi uomini, vivi e morti, che qui combatterono, lo hanno consacrato al di là del nostro piccolo potere di aggiungere o detrarre. Il mondo noterà appena, né a lungo ricorderà ciò che qui diciamo, ma mai potrà dimenticare ciò che essi qui fecero. Sta a noi viventi, piuttosto, il votarci qui al lavoro incompiuto, finora così nobilmente portato avanti da coloro che qui combatterono. Sta piuttosto a noi il votarci qui al gran compito che ci è di fronte. Che da questi morti onorati ci venga una accresciuta devozione a quella causa per la quale essi diedero della devozione l'ultima piena misura. Che noi qui solennemente si prometta che questi morti non sono morti invano, che questa nazione, guidata da Dio, abbia una rinascita di libertà, che l'idea di un governo di popolo, dal popolo, per il popolo, non abbia a perire dalla terra. Government of the people, by the people, for the people. Shall not perish from the earth. Lo so, il peso retorico è quello che è. 19 novembre 1863, il Gettysburg Address, il più famoso discorso pronunciato dal più famoso politico della storia americana, Abramo Lincoln, appena 4 mesi dopo la battaglia che proprio su quel campo dove pronunciava il discorso si era tenuta, la battaglia, una delle battaglie chiave della guerra civile. Ma insomma, i rimandi che il presidente eletto a 3 giorni dalla consacrazione, Barack Obama, sta continuando a indirizzare nei confronti di Abramo Lincoln ci spingono a tirare a questo punto veramente per la giacchetta, no? A chiamarlo in causa, a convocarlo almeno idealmente a questo grande passaggio inaugurale che del resto si svolgerà, guarda caso, proprio sugli scalini del Lincoln Memorial a Washington, dove Barack Obama giurerà sulla Bibbia, la stessa Bibbia, lo stesso volume su cui giurò Abramo Lincoln, in una discendenza che è stata il motivo dominante della sua campagna elettorale, che solo di recente, solo negli ultimi mesi, da ottobre in poi, no, dallo spread of wealth, dalla ridistribuzione del benessere usato come argomento elettorale, ha chiamato a far parte di questa discendenza un terzo membro, creando così a tutti gli effetti un triangolo che prevede come capo originario Abramo Lincoln, come successore illuminato per quello che pertiene al tema del tempo di crisi, no? Tempo di crisi di cui Barack Obama dovrà essere, se potrà, il risolutore dal suo primo giorno, e terzo capo di questo triangolo, terzo vertice, proprio l'imminente 44esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Insomma, il ricalco, no, di questa formidabile esperienza che ormai è patrimonio della storia, messo in atto da Barack Obama, è evidente ogni giorno, non passa giorno, non è un caso, è una precisa evocazione, è un camminare sul filo, del resto, del quale poi Barack Obama dovrà in un certo senso rendere conto alla nazione, addirittura al mondo. I gesti si stanno ripetendo, no? È ormai previsto, sancito, ampiamente schedulato questo viaggio in treno che da Filadelfia porterà a Washington Barack Obama, facendo fermata nel Delaware per far salire il suo vicepresidente, il vicepresidente Joe Biden, e la sua famiglia, ripercorrendo proprio un consimile evento che vide come protagonista Abramo Lincoln. Viene fuori la notizia ora che addirittura dopo l'inaugurazione, dopo quel discorso di inaugurazione a cui con tanta passione Obama e Favreau, che è poi lo speechwriter, no, lo scrittore di discorsi, pensate, ha solo 27 anni, pensate, in America i discorsi del presidente, del futuro presidente degli Stati Uniti, li scrive un 27enne. Ci vorremmo fermare un attimo e dire: riflettete. Ma dicevamo, Lincoln andrà a fare il suo pranzetto, il suo primo pranzo da presidente, con la famiglia, con il suo vice Joe Biden, la famiglia di Joe Biden, il leader del Congresso, i giudici della Corte Suprema e parecchi membri del futuro Consiglio dei Ministri. Ebbene, emerge oggi la notizia, così un po' vacua, però al tempo stesso significativa, che il pranzo, che sarà servito in repliche dei piatti di ceramica scelti da Mary Todd Lincoln, la signora Lincoln, personaggio a cui andrebbe dedicato non una puntata, un programma intero, ma insomma, e il menù sarà lo stesso menù servito ad Abramo Lincoln nella medesima occasione. E siccome sappiamo che siete curiosi, ve lo diciamo: questo menù sarà uno stufato di frutti di mare in pasta sfoglia, capesante, gamberi e aragosta. A me viene l'acquolina in bocca, ho mangiato riso in bianco, che appassionavano particolarmente Lincoln, grande mangiatore di ostriche. Seguirà una portata principale a base di petto d'anatra in salsa di amarene e fagiano arrosto con le erbe servite con patate dolci e verdure. Salute! E per finire, torte di mela, una torta di mela e cannella, la torta preferita da Abramo Lincoln, sedicesimo presidente. C'è chi ha scritto in queste ultime ore: speriamo che Obama almeno non si presenti alla inaugurazione con un cappello a cilindro, cattiveria, per insomma che non si faccia prendere la mano. Il New York Magazine scrive: un consiglio che vorremmo rivolgere a Barack è lo stesso che qualunque mamma, no, rivolge al figlio alla vigilia di un appuntamento di questo peso, ovvero sii te stesso, no? Barack, sii te stesso, anche perché, scrive sempre il New York Magazine, peraltro Barack è un tipo gradevole, un tipo piacevole, ha una sua personalità a modo proprio trascinante, ma però al tempo stesso, a proposito di Lincoln, non vorremmo che finisse che facciamo un'altra guerra con il Sud. Insomma, è a tutti gli effetti Obama mania, c'entrano tutti, grandi e piccini, anche studenti delle scuole elementari. Dear President-elect Obama. Dear Mr. Obama. Dear President-elect Obama. There are many things I would like you to consider as a 44th president. Questo è uno degli hit delle televisioni americane in questi ultimi giorni, le letterine scritte al presidente dai bambini. We don't like war. I think you'll be a We don't like war, non ci piace la guerra, il leitmotiv è quasi sempre lo stesso, si parla quasi sempre di questo nelle piccole lettere che gli studenti di prima, seconda, terza elementare, primo, secondo, terzo grado, come dicono loro, scrivono al futuro presidente: per favore, non vogliamo che i nostri soldati muoiano più nella guerra. Sarà uno dei principali problemi con cui Barack Obama dovrà fare i conti fin dal primo giorno di lavoro. Lui intanto va a pranzo con i giornalisti, c'è stata anzi una discreta amaretta per questo motivo, perché per fare un dispettuccio Obama è piuttosto dispettoso con i reporter, li stuzzica. Quando i reporter stuzzicano Obama, in linea di massima Obama stuzzica i reporter. Se uno gli dice, gli fa una domanda troppo insidiosa, lui fa in modo di rivolgere la stessa domanda insidiosa nei confronti del giornalista che gliel'ha fatta, che naturalmente comincia un po' a barcollare, almeno così realmente. E la vita con i giornalisti, la vita insieme tra giornalisti e Barack Obama credo sarà così, avrà andamenti sussultori. Comunque non a caso ha scelto per andare a pranzo alla vigilia dell'insediamento prima i giornalisti conservatori, cosa che ha fatto incavolare mortalmente naturalmente i giornalisti liberal, che si arrogano di essere stati, no, almeno in parte veicolo della grande elezione. È andato a casa di George Will, un grande opinionista conservatore americano, e a tavola una signora tavola, non c'erano David Brooks del New York Times, Bill Kristol, il direttore del Weekly Standard, c'era Peggy Noonan, collaboratrice di Reagan e capo opinionista del Wall Street Journal, c'era Charles Krauthammer, uno che l'ha bersagliato, l'ha bastonato per tutta la campagna elettorale sul Washington Post, e poi tanti altri, tra cui Michael Barone, l'uomo numero, no, di Washington, quello che sa i numeri di tutto. Poi ha dato il contentino, ha invitato a cena i progressisti, che ordinatamente sono andati. Naturalmente non si sa niente di questi pranzi, perché l'ordine è assoluto, è tacere, tacere, tacere, e non rompono la disposizione. C'erano Frank Rich, un editorialista umorista del New York Times, c'era E.J. Dion del Washington Post, c'era Rachel Maddow della NBC, molto molto spiritosa giornalista che ha inaugurato un giornalismo, come dire, sessualmente molto liberato, ecco, lo chiameremo così. E c'era naturalmente la nostra prediletta Maureen Dowd, dalla quale bene o male qualche piccola indiscrezione nei prossimi giorni ce la aspettiamo, su questo corteggiamento, no, fra stampa e presidente. È il momento, insomma, delle grandi celebrazioni. È stata scattata da Pete Souza, futuro fotografo capo della Casa Bianca, la foto ufficiale di Barack Obama, quella che dal martedì in poi vedremo ovunque. Per adesso è ancora segretata. Il presidente ha fatto sapere che quando andrà a pregare andrà nella chiesa episcopale di St. John, che è attraversata la strada rispetto alla Casa Bianca. E poi naturalmente si muovono le cose dell'amministrazione. È in corso l'audizione che dovrebbe dare il via libera a Holzer, futuro ministro della giustizia. Ci sono molti inciampi sulla questione Gettner, ne parleremo nella seconda parte. Qui si parla di ministri invece dell'economia. Si batte alla porta dell'amministrazione affinché i guai vengano risolti nei tempi più brevi possibili, perché, come abbiamo detto più volte, c'è molta agitazione per la questione economica. Se è vero che di ieri è la notizia di un genitore messicano che ha messo in vendita la figlia, anzi le è stata proprio venduta la figlia, poi gli è stata riportata indietro, o meglio non pagata, e lui è andato a protestare alla polizia, fermo restando che l'hanno arrestato subito, e che in televisione in queste ore fa sensazione questo annuncio. There's a price on virginity and apparently it's about $3.7 million. Few months ago we did tell you. Yes, Mike. 3.7 million dollars, come diceva con un agghiacciante twang, no, accentaccio americano, questa speaker televisiva, è la cifra che una vergine ha richiesto e pare avrebbe anche ottenuto per mettere in vendita appunto la sua verginità. Dice che deve studiare, ha 22 anni, è procace, questa notizia è stata sbranata dai talk show della mattina con una certa inquietudine, naturalmente col ditino alzato moralizzatore, ma anche per dire ragazzi, colleghi, concittadini americani, guardate che l'aria è questa, qui la gente comincia a vendersi le ultime cose che gli restano. Unrecognizable to myself, saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? L'abbiamo messo mica a caso, ma perché anche lui è parte, membro, il suo nome è scritto bello in grosso in questo elenco stellare, no, di artisti, di rockstar che faranno da contorno pop rock alla inaugurazione di Obama a Washington. Ci sarà anche lui al Lincoln Center, sempre Lincoln, e canterà questa canzone, no? No, canterà questa canzone, però questa canzone piace a noi, e qui sarebbe bello se cantasse questa canzone, avrebbe un forte potere evocativo sull'America che soffre. Questa, vi ricordate, Street of Philadelphia, del colonna sonora dell'omonimo film di Jonathan Demme. Ma no, credo farà cose in questi casi, lui riesce Borturan, a molto più Borturan è un'altra che non la vedo bene. Prima pagina. 26 gennaio intanto a Pechino, perché tra pochi giorni è il capodanno cinese, si entrerà nell'anno del bue o del bufalo a seconda delle traduzioni, ma è di fatto la stessa cosa, forse anche del toro, come so qualche ascoltatore. Sei stato protagonista di una dura battaglia. No, alla fine credo che toro, bue o bufalo siano praticamente la stessa cosa, ma però non vorrei impelagarmi in un discorso pericolosissimo. Meglio. Nel frattempo le autorità cinesi hanno paura che le ferrovie non siano in grado di far fronte all'ondata di persone che si sposteranno. Era un da anno una parte. Fa che è la stessa cosa, è la stessa cosa. Perché un anno fa dicevamo le stesse cose. Come al solito, questo movimento di massa per questa festa nazionale, che è anche la festa di primavera, si prevedono circa 188 milioni di passeggeri, cioè siamo a livelli più o meno di metà Europa che si muove da una parte all'altra della Cina, e quindi si teme, insomma, che le ferrovie non siano in grado di supportare questo trasferimento di massa. Poi c'è il problema del freddo, che esattamente come un anno fa minaccia le feste. L'anno scorso purtroppo ci furono anche decine di milioni di persone che rimasero bloccate, qualcuna morì anche per il freddo. E in più c'è un terzo problema, forse questo è nuovo, Stefano, questo è targato 2009, perché nel frattempo la polizia ha arrestato più di 2300 persone che vendevano non autorizzate dei biglietti falsi per il biglietto, appunto, del treno. Interessante, biglietto falso del treno. Dunque, se tu sei sulla mia copertina, potrei essere sul foglio da un dollaro, chiede Spider-Man a Barack Obama. È finalmente uscito l'albo più pubblicizzato, almeno negli ultimi anni, dei fumetti americani, quello in cui due Obama se le danno di santa ragione per conquistare l'America e il mondo. Naturalmente grande pubblicità per il fumetto di Stan Lee, che tra l'altro, come abbiamo detto, raccontato ieri, ha anche lanciato l'idea, no, del che cosa, del supereroe. Ecco, apriamo un attimo Holder. And we must work actively with the EPA and other agencies to protect our environment. In all of this, I hope to establish a full partnership with this committee. Andiamo sulle questioni serie in corso in queste ore a Washington DC. Questa è la udienza di conferma di Eric Holder, ministro della giustizia, in sostanza una conferma che avrà parecchi sussulti, perché parecchi sono i cecchini che hanno intenzione di sparare su Holder, mentre invece, come notizia dell'ultimo momento, è l'uscita del primo via libera del Senato, piuttosto scontato, a Hillary Clinton come segretario di Stato designato americano, con 16 voti a favore e uno contrario. Mi piacerebbe studiare chi è. La c'è commissione il francotiratore esteri presieduta da John Kerry ha suggerito all'Aula, che si riunirà la prossima settimana, di dare il via libera alla First Lady. Il sì del Senato appare scontato. Allora, ogni tanto quando parliamo di Cina parliamo di animali, però questa volta non si tratta dei cari panda che fanno spesso capolino da queste parti, ma di due cani, Golden Labrador, che da ieri hanno debuttato nel ruolo di cercatori di droga sugli aerei appena sbarcati a Pechino. Praticamente questi cani salgono sull'aereo appena sono scesi i passeggeri e che fanno? Fanno un controllo di 10 minuti posto per posto e se c'è un odore strano in un determinato sedile, il passeggero che sedeva in quel posto viene subito fermato prima che possa uscire dall'aeroporto. La cosa curiosa è che questi cani hanno uniforme e scarpe di pelle nere. I cani. E c'è una spiegazione, i cani, perché le uniformi impediscono che i peli finiscano sui sugli aerei, insomma sui tappetini e sui posti degli aerei, e poi le scarpe servono ad evitare che danneggino con le unghie appunto i sedili o altri pretendo oggetti. Pretendo una fotografia, notizia del, fantastica, di questi due Golden del Labrador, del cane da fiuto antidroga con le scarpe cinesi. Prendiamo tra poco, vi riferiamo di Eric Holder, udienza a Commissione Washington, c'è Pietro Paganini, nostro ospite. Somebody tell me what's going wrong. I ain't seen my baby in far too long. Somebody please tell me what's going wrong. They say them ladies broke and my baby's gone. It's been a couple of days and a real dark night. I miss my own child. I ain't seen her since that night. She left home about 8 and never to return. Our bodies floating through that river. I got no time to know what's going wrong. I ain't seen my baby all too long. Somebody please tell me what's going wrong. I ain't seen my baby all too long. I've been searching all around, day and day and night. Somebody please tell me, I need to feel some light. So many souls crying, how could this be? Cause every step I take, they think, oh Lord, please rescue me. Somebody tell me what's going wrong. I ain't seen my baby in far too long. Somebody please tell me what's going wrong. I ain't seen my baby in far too long. Tell me somebody tell. Casa Bianca. Il passaggio di consegne. Beh, allora, alcuni aggiornamenti prima di tornare agli argomenti principali. Grazie a Hermes che con prontezza degna di un vero ascoltatore. Buongiorno Pietro. Buongiorno Paganini. A te. Un vero Hermes. Ascoltatore di Jefferson Ming ci ha già fornito la foto del cane, non proprio lui, ma insomma un suo cugino straniero, del cane con le scarpe. Le scarpe del cane, se è questo di cui vogliamo parlare, sono un po' delle sneaker da cane, se posso essere, delle corse, delle scarpe running, no? Running ma per cane. Perché guardi l'altra parte? Io? Non ti piace l'idea della... No, stavo commentando l'argomento sulle scarpe. Insomma, fanno la sua figura. Peraltro Hermes sicuramente non si smentirà, ci promette di mandarci al più presto anche la divisa dei cani antidroga su aerei cinesi. E poi abbiamo mantenuto invece la nostra promessa, abbiamo appurato chi era l'uno che ha votato contro Hillary Clinton in sede di commissione per dare luce verde, via libera alla nomina di Hillary a segretario di Stato americano. Si tratta di David Vitter, definito ultraconservatore. 2 anni fa ha salvato il seggio per il rotto della cuffia, scrive il cattivo così articolista, il cattivo reporter, dicendo cattivo nel senso di un po' sadico, ricordando che era stato coinvolto nello scandalo sessuale della madama di Washington, una storia, la DC Madam, una storia interessante, importante per definire, no, come nella capitale, nel distretto di Columbia, ormai le abitudini fossero piuttosto stravaganti. Deborah Jean Palfrey. Però 16 a favore, va avanti la candidatura di Hillary. Sono in forte ballottaggio quella di Eric Holder, che è in corso di audizione in questo momento, e altrettanto potrebbe capitare anche a Geithner, il Timothy Geithner, il segretario del Tesoro designato da Barack Obama, che però veramente non vorrebbe sentire ragioni. Tim Geithner, when I nominated him, was rightly lauded by people from both sides of the aisle. Dice che gli hanno insomma sparato addosso da tutte e due le parti dello schieramento. To deal with as what Lindsay described properly as the biggest crisis that we've had since the Great Depression. Però dice ragazzi, stiamo attenti a che cosa stiamo andando incontro prima di litigare sui contributi alla donna delle pulizie di Timothy Geithner in modo da metterlo fuori gioco. Qui c'è un paese in difficoltà. People who are working internationally or for international institutions, it has been corrected. He paid the penalties. Ha pagato le multe per i contributi che si è dimenticato di pagare al suo tempo. Insomma, Obama sta dicendo per favore lasciateci lavorare, ragazzi, lasciateci lavorare. Pietro, è testimonianza di come comunque anche retroattivamente, se vuoi fare politica in America, così tanto per fare un discorso anche no, un po' di sapore locale, invece bisogna stare molto molto molto molto attenti. Che beh, dici? Sicuramente, questo dall'indice da una parte di un po' di cattiveria della politica americana, cioè pensiamo oggi a Facebook, sicuramente qualcuno certo. Che scrive qualcosa oggi fra 10 anni sarà, sarà ripescata, quindi dobbiamo stare un po' tutti attenti certo. E questo succede in America. E dall'altra parte però è indice di serietà, cioè tutto quello che viene fatto viene scandagliato e poi può essere usato contro di te, e questa è la dimostrazione. Se dovessimo fare la comparazione con l'Italia, che ci tocca farla in un certo senso, e i nostri ascoltatori già sanno qual è certo, la risposta, certo. Ci renderemo conto che gli Stati Uniti non sono un paese di onesti rispetto al nostro, però sono un paese dove chi comunque ha furbeggiato viene messo all'indice e deve pagare. Qui c'è lo scontro però con quanto un po' avevamo anche polemizzato, soprattutto i giornali italiani l'avevano trovato eccessivo, il famoso questionario certo. di Obama, cioè dove voleva sapere tutta la verità. Probabilmente certo. Qualcuno si è dimenticato di proprio dire di dire tutta la verità, però dimostra che Obama già lì tentò di giocare sulla trasparenza, e devo essere onesto, critici o non critici, Obama si è sempre contraddistinto per la trasparenza. Poi provenendo proprio dalla città di Chicago, dove sappiamo che gli scandali scoppiano certo. Ad ogni angolo delle strade, anche sulla questione fiscale si è sempre detto per la trasparenza delle amministrazioni. Con la sua amministrazione si è detto voglio essere assolutamente trasparente con quel questionario, che andava anche in un certo senso contro la privacy, però certo. In realtà in una politica come quella americana è utile perché hai i franchi tiratori, in questo caso i repubblicani, che saranno andati a studiare tutto di tutti certo. Per attaccarli, e dall'altra parte dei cittadini, cioè se i cittadini scoprono che non hai pagato una multa per loro non sei una persona etica. È piuttosto turbolenta anche l'udienza che appunto è in corso adesso, che riguarda Eric Holder, che dovrebbe diventare ministro della giustizia dell'amministrazione Obama. Holder ha ammesso che le sue decisioni non sempre sarebbero state perfette, ha detto in retrospettiva posso vedere adesso i miei errori chiaramente, posso dire di aver imparato la lezione. Holder tra l'altro ha lavorato anche sotto Ronald Reagan, se confermato sarebbe il primo ministro della giustizia afroamericano, e Holder ci ha tenuto a mettere l'accento sul dato razziale, sul quale come sappiamo, come ormai abbiamo imparato, invece Barack Obama ama glissare. Sono quello che sono, guardatemi, è inutile che insisto a parlare di diritti preziosi, diritti civili, frase appunto appena usato da Holder, che invece addirittura ha evocato sua cognata che si chiama Vivian Malone Jones, titolare responsabile di una battaglia importante per contro la segregazione razziale in Alabama a inizio anni 60. Vivian e il suo compagno James Hood sfidarono il governatore George Wallace, si iscrissero all'università, andarono in classe nonostante il pericolo. Questo è uno degli echi che circonda questa elezione, con tutte le particolarità e anche le originalità che ha. Hai parlato di privacy, Pietro, anche perché tra l'altro sei titolare di organizzatore di un evento che sta per andare in scena. La data esatta è 27 gennaio. Spiegaci di che si tratta. Ma è un evento, sai, io mi occupo di competizione e competitività e ci siamo chiesti se la privacy fosse un elemento contro la competitività o a favore della competitività. Purtroppo le aziende, e non solo le aziende, ma anche le amministrazioni pubbliche prendono la privacy come una liability, per usare una parola in tono con la trasmissione, cioè come un elemento negativo, un fattore contrario agli aspetti manageriali. In realtà noi crediamo che la privacy sia un asset, cioè un fattore di vantaggio da essere utilizzato in maniera proattiva. Certo. E quindi stiamo lavorando con l'Istituto Italiano per la Privacy e con il nascente Associazione Europea per la Privacy proprio per cercare di educare le aziende, le industrie a capire che la privacy può essere un fatto positivo. Ma se io ti chiedessi lo stato delle cose della privacy in Italia e in Europa, nella comunità europea, c'è stato un momento, come dire, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, si è capito, no? Sono stati comunicati, resi noti, resi pubblici alcuni diritti e poi forse si è andati un po' dall'altra parte, c'è stato un forte sussulto, una grande questa evocazione alla privacy è stata talvolta magari utilizzata anche un po', no, a sproposito. Sì, eccessivamente. Adesso, lo stato delle cose com'è? Stato delle cose è che bisogna trovare un bilanciamento tra da una parte il mercato e dall'altra parte le garanzie degli individui. Le leggi ci sono oggi, sono ottime, non ci sono ancora per quelli che sono gli argomenti del futuro. Pensiamo al cloud computing, a internet, ai search engine, al social network, Facebook per primo, dove la privacy è molto a rischio. Ma su Facebook la privacy non è a rischio perché Facebook è cattivo, assolutamente il contrario. Lì è perché i cittadini, per esempio, non sono ben educati, perché molti tendono a mettere tantissime informazioni riguardo a se stessi. Alcuni lo fanno in maniera responsabile, altri lo fanno ancora in maniera irresponsabile. Ma la privacy è una responsabilità individuale? Io sono responsabile della mia privacy? Sono io il primo garante della mia privacy o no? Io sono il primo garante della mia privacy, ma poi ci deve essere un insieme di regole che mi permette di tutelare la mia privacy. Questo in parte avviene perché ci sono le regole, in parte mancano ancora, però siamo a buon passo. Dall'altra parte c'è da dire che l'applicazione è ancora molto scarsa, perché c'è una cattiva ancora informazione per quanto riguarda la privacy. Quello che va fatto è una consapevolizzazione degli utenti. Se noi guardiamo negli Stati Uniti, Facebook e altri programmi come Twitter, social network, sono molto attivi. Twitter sta esplodendo nella zona di Washington tra i diversi lobbisti e tutti mettono informazioni, ma sono molto cauti sulla tipologia di informazioni che vanno a mettere, proprio per quello che dicevamo prima. Perché un'educazione a tutto ciò in realtà non esiste. Non esiste un'educazione, però in America c'è la paura poi di essere, discorso che si faceva prima, di essere pescati fra un anno e dire: ma tu avevi messo quelle informazioni. Perché il grosso problema, per esempio, di Facebook non è mettere informazione su Facebook, appunto, ma è cancellarla, perché nel momento in cui noi la cancelliamo in realtà non viene mai cancellata, certo, per davvero resta e qualcuno per caso può andarla a ritrovare con delle ripercussioni negative. Allora, l'evento si chiama Il futuro della privacy in Europa, nel mercato, la sicurezza, i diritti fondamentali. Interviene Pat Cox, ex presidente del Parlamento. E si terrà il tutto il giorno 27 gennaio, che è un martedì. Sede? Parlamento europeo. Parlamento europeo di Bruxelles. Torniamo a disquisire con Pietro Paganin, soprattutto di scenari americani, tra poco. I'm gonna hold you tight and love you right, and you know that I am out of sight, 'cause I'm the satisfier. Satisfied. Oh, I'm the satisfied, yeah, yeah. And when I hold you in my arms, I'm gonna love you all night long. Satisfied. dunque, vi ricordo, perché ancora non l'avevo fatto, che per contattarci avete come sempre molti modi. Il più semplice è mandare un sms al 349-238-6666, ma adesso però abbiamo uno strumento che sta funzionando benissimo e sul quale abbiamo anche intenzione di far ruotare insomma una certa parte del programma nelle sue imminenti evoluzioni, e questo strumento si chiama Facebook. Ne abbiamo appena parlato con Pietro Paganini, che è oggi ospite in trasmissione. Ormai sono quasi 500 gli amici che si sono raccolti proprio nel sito della redazione, si chiama Redazione Jefferson Ming. Siete invitati a iscrivervi, e per esempio gentilmente Hermes, di cui sopra l'ascoltatore che ci ha mandato la magnifica foto del cane con le scarpe in servizio della polizia cinese, è stata postata questa foto sul sito. Poi c'è anche un sito invece bacheca che si chiama Jefferson Ming Radio 24, sul quale a partire da praticamente quasi subito metteremo in circolo, in ballottaggio, gli argomenti più caldi del giorno, della settimana, e raccoglieremo e ribatteremo poi naturalmente i vostri pareri, le vostre osservazioni. E tu mi sorprendi, caro Pietro, perché insomma, vista la tua formazione culturale, i tuoi obiettivi, la praio, se dibatti, poi leggi Chomsky, com'è la questione? Bisogna sempre leggere. Ah, ho capito, è una vecchia strategia, leggere il nemico per capirne l'intenzione. Esatto, no, sono rimasto folgorato da questa notizia su Chomsky, che non è contento neanche di Obama. Era stato leggermente entusiasta, devo dire, agli inizi, agli albori della candidatura di Obama, e invece ho trovato una sua vecchia di qualche settimana intervista dove dice: non fatevi illusioni su Obama, e ci va anche pesante, cioè parla di un Obama non democratico, una sorta di dittatura per scelta, una costruzione politica nella quale il pubblico è composto da spettatori dell'azione e non da partecipanti. Questa è più un'analisi dal punto di vista mediatico che politica, e Chomsky in realtà viene dall'area linguistica e poi della comunicazione. Certo. E poi continua: quelli che hanno scelto di illudersi con Obama certamente resteranno delusi. Quindi se Chomsky c'è ormai una definita area di sinistra che americana, più Obama. È che su Obama, sì, in un certo senso ha deciso di rendere pubblica la delusione, per esempio quella che fa circolo attorno a The Nation, il noto quindicinale, che sostiene appunto che con Obama tutto sommato l'America non cambia, non si cambia, ma insomma bisogna anche intendersi sul significato di cambiamento. Io da te, proprio alla vigilia insomma dell'insediamento del governo e a posteriori questa lunghissima e frastagliata e anche turbolente in certi momenti transizione e formazione del governo, con tante personalità, tante facce, razze, età messe insieme, vorrei invece un tuo giudizio. Che cosa te ne sembra, soprattutto naturalmente al di là delle grandi parole, grandi retoriche, a fronte dei problemi, quelli stringenti, immediati, che dovranno affrontare? Ma il mio giudizio è un giudizio, devo essere non per fare il filone dei nostri radioascoltatori, ma è un giudizio che deve essere oggettivo, razionale e abbastanza neutro, nel senso che io credo che abbia messo insieme una buona squadra dal punto di vista soprattutto suo, una squadra più di centro, ma questo è inevitabile quando c'è una situazione di crisi. Poi i diversi economisti, incluso Krugman, hanno buon viso, insomma fanno buon viso a cattivo gioco e hanno spazio per criticare. La squadra è buona. Oggi la Repubblica parlava dei 100 giorni, no? Riferendosi al famoso... rispolverando il parallelo con Roosevelt. Io dico, aspettiamo e vediamo cosa succede. È vero che possiamo già commentare, dal mio punto di vista è una buona squadra. Ho apprezzato, naturalmente, grazie al mio background, chiaramente qualcuno magari ha una visione diversa, l'approccio alle tasse, cioè la riduzione delle tasse che riguarderebbe circa un 90-95% della popolazione. Su questo Krugman è contrario, perché vorrebbe una maggiore spesa pubblica e quindi non riesce a capire come Obama giustificherà la spesa pubblica riducendo le tasse. Però direi, riprendendo i 100 giorni di Roosevelt, cominciamo a vedere cosa fa. È inutile star qui 20 giorni prima a cominciare a dire cosa succederà. E quel paragone mi comincia a sembrare un po' usurato. Il paragone è sicuramente usurato. Obama ha una sfida davanti, anzi ha molte sfide. La più grossa è quella dell'economia, interna soprattutto, rilanciare i consumi, invece i consumi si ridurranno. E non si può sottrarre a quella estera. E non si può sottrarre, dobbiamo anche considerare che è sicuramente un presidente dalle grandi capacità, un presidente che ha creato molte aspettative, però è in un periodo talmente difficile che accontentare tutti sarebbe impossibile. E io credo che non ci sia nemmeno, anzi non c'è, una ricetta per risolvere una crisi del genere. Poi molti a Washington direbbero giù le tasse, è il momento della creative distraction, certo. Rifacendosi a studiosi passati, però insomma ragioniamo ancora sul teorico, il pratico è molto diverso. Pietro, c'è posta per tutti. Allora, c'è posta per il cuoco di Obama, prima di tutto, che abbiamo raccontato in tutto il programma, mangerà le stesse cose che mangiò Abe Lincoln al suo insediamento. A me sembrava un tantino pesantuccio quel menù. C'è chi apertamente con un SMS gli augura che gli vada di traverso, chi invece osserva che l'aspetto culinario non era niente male all'epoca, c'è chi purtroppo tira ancora in ballo il nostro Emiliano, che vedo dall'altra parte del vetro, perché non è finita la questione oroscopo cinese. Caro Emiliano, non ne sei fuori come speravi riguardo all'anno dell'oroscopo cinese, perché un ascoltatore si firma a tag, ti dice, mio caro, che non è l'anno né del toro né del bufalo, ma né di altri animali, il bue che hai citato, ma è l'anno della mucca, e mi duole precisare ancora. Non ci siamo. E poi c'è posto anche per te, Pietro, perché... Dunque, Simo precisa che in realtà nei periodi della protesta antiguerra del Vietnam, Chomsky e New Left erano alleati con i libertari in chiave pacifista, perlomeno. Certo, l'origine è quella. Pacifista, l'origine è quella. E Alessandra invece ti fa una domanda diretta a quel interessante discorso che abbiamo messo in circolo, sul quale mi piacerebbe presto tornare, riguardante la privacy. Probabilmente utente di Facebook, come un po' noi tutti. Come Hermes. In questi giorni, come Hermes e tutti gli altri. Altri e noi stessi, e ti dice, caro Pietro, puoi fare qualche esempio di cattivo utilizzo di informazioni su Facebook legato alla privacy? Magari sei un po' allarmata, Alessandra. Ma, di Milano. Prendo il nostro ascoltatore Hermes, visto che ci ha fatto, certo, un favore in realtà, e dobbiamo fargli complimenti. Mettiamo, certo, che Hermes è al posto di lavoro, mette la foto durante l'orario di lavoro, il suo capo sta ascoltando la radio, sa che Hermes, utilizzo il termine, sta cazzeggiando con noi in radio, torna e poi ha tutti gli strumenti per licenziarlo. In America questo è successo. Tu, mentre stavi lavorando, ti sei messo a giocare con Facebook, questo è il discorso. Io sì, io lo faccio sempre. No, non tu. Facevo anche un po'. Voi, facevo il principale di Hermes. No, dai, ma, questo era un niente, esempio. Niente, poi ce ne sono tanti. Il diritto all'oblio. Io posso prendere una foto di Stefano, io e te non siamo linkati, parlare male di te continuamente su Facebook, e non hai assolutamente nessuno strumento. E tu non lo sai, certo. Tu non lo sai, oppure vieni a saperlo, ma non hai strumenti per farlo. Questo relativamente a Facebook. In realtà Facebook ha una buona policy privacy, però ha delle conseguenze che sono pericolose, come il cosiddetto diritto all'oblio, il fatto che io non posso cancellare quello che ho messo. Un altro grosso, perché uscendone non esce il tuo passato, perché in realtà non viene cancellato, cioè tutto rimane sui server e può essere rintracciato, come può essere rintracciato con Google. Lì c'è una grossa disquisizione. In realtà Google, questo lo sappiamo quasi tutti ormai, profila tutti gli utenti in base dall'IP, è un rischio per la privacy. C'è un dibattito, noi stiamo poi intervenendo naturalmente a livello di competitività, cercando di capire quello che potrebbe essere giusto e quello che è meno giusto. Va bene, niente, qui finisce la nostra chiacchierata, anche tra pochissimi istanti la nostra trasmissione, la vedrai, ti metterai in poltrona a vedere l'inaugurazione, lo spettacolone. Certamente. E gli annessi connessi, le parole, no? Andrò a Palazzo Grazioli a vederla insieme a Berlusconi, l'attesissimo, certo. Che sono sicuro che se la guarderà da casa. No, ha detto di no, ha detto che lui o tutto o niente, insomma. Adesso oggi ha smentito, tra l'altro, ha detto che, come al solito, stava scherzando, Invece una notizia seria, piuttosto importante per concludere, riguarda ancora Eric Holder, il ministro della giustizia in pectore della futura amministrazione americana di Barack Obama, che ha detto che nella sua interpretazione per come la vede lui, insomma, c'è stato dibattito. Vi ricordo che Bush, non più tardi di un paio di giorni fa, è intervenuto sull'argomento, ma secondo Eric Holder la tecnica del waterboarding, il semiaffogamento, non so come chiamarlo, con cui sono state ottenute informazioni da alcuni terroristi o sospetti terroristi, è tortura. Quindi Eric Holder dice: signori, per me è tortura. Vuoi dire qualcosa? Prego. No, l'ultima cosa su Facebook è di non spaventarsi assolutamente, perché certo, poi in Italia, per l'amor del cielo, c'è molta più flessibilità che in altri paesi. Quindi Hermes, che abbiamo usato come anonimo, in realtà a noi ha fatto un grande favore, spero che continui, anzi, a mandarci foto e informazioni. Ci siamo dentro tutti. E infine, insomma, l'amministrazione Bush aveva, come dicevo, ammesso di aver applicato su individui in odore di terrorismo il metodo del waterboarding, che simula l'annegamento, e aveva sostenuto che non rientra, secondo lui, nella definizione di tortura. Se change ci deve essere, ecco, questo è un piccolo barra grande segno. Il futuro imminente ministro della giustizia ha detto esattamente il contrario. Allora, grazie a Pietro Paganini, ospite in studio. Ci risentiamo naturalmente prestissimo. Questo è Jefferson Ming, sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia oggi hanno lavorato a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Pietro La Corte. L'indirizzo mail è jeffersonming@radio24.it. Vi ricordo, oggi ne abbiamo parlato parecchio e ho l'impressione forte che ne parleremo parecchio nei prossimi tempi. I siti Facebook su cui potete trovarci, Jefferson Ming Radio 24 è la bacheca per partecipare ai dibattiti in corso, per contattare noi, redazione Jefferson Ming. Anche sul sito della radio, attraverso la pagina Jefferson Ming, ci sono questi collegamenti. Questa puntata del programma, come di consueto, va in replica stasera alle 9, poi occhio la settimana prossima, perché un po' di cose si spostano, ma invece domani, come al solito, saremo alle 4 qui a parlarvi da Radio 24. Ci risentiamo.